mascherina, mi è venuta fuori una cosa che cioè, mi mangiavo in due marce la 112, il motore 1007 boxer dell'Alfa, c'erano uno o due che tornavano da lavoro da Porto Torres e io quando li vedevo tutti agguerriti buttavo la quarta, li perdevano la specchietta. Cioè, il motore Fire della 1, il motore Fire della 1 ha fatto scuola, capito? Cioè la Fiat, quei motori, io la trovo meravigliosa a livello di progettazione. Io ho avuto sarà uno Fire, se ti dimentica di mettere benzina, cammina, ora ti dimentica di mettere benzina. Ho avuto anche l'appunto 16 valvole, 75 cavalli, una bella coppia con la macchina. Camminava e quando gli chiedevo di camminare un pochino mi succhiava l'anima. Quella è una scelta che ho sbagliato, c'è poco da fare. Vedi? Quello era un motore che non doveva dare prestazioni. La Fiat l'ha fatto così ed era attiva a 40 all'ora in città, finito. Però subito dopo, i 1216 valvole, che mi sembra che abbia avuto tu, dubbio, quello era un bel motore, consumava poco e camminava bene. Quello era nato perché doveva dare quelle prestazioni. Perciò tanto di cappello e voto di Fiat, per carità. Ma hanno difetti elettrici, più che altro hanno difetti elettrici, non di motore. A me mi ha fatto praticamente, vabbè, sono stato sfigato io, cosa vuoi che ti dica, la batteria l'hanno cambiata dopo un mese che ce l'avevo, non caricava come doveva, hanno provato tutto ed era la batteria difettosa, ma quella di giambata, in garanzia. E adesso sta facendo questo difetto, adesso da quando l'ho comprata faceva sempre questo difetto qua, mi si accendeva l'aria condizionata da sola, non funzionava la pedina USB, insomma, belle storie. L'ho portata ed era la batteria quello lì, però adesso sta facendo ancora il difetto del contachilometri, me lo sta facendo di nuovo. Il capo era importante forse. Sì, sono i difetti che possono accadere, però devi pure confrontarti con gli altri, diciamo, non dico fare segmento, ma più o meno, perché in Citroen, quando la batteria è un po' scarica, su alcune marce con cambio automatico, non ti entra la marcia, capito? Cioè, difetti allucinanti. Adesso il mio avvocato, per esempio, che ha una Citroen, mi ha chiamato in soccorso perché fa un po' di massimo di queste cose, cioè un sacco di spie accese, gli spegnevo il motore, l'airbag, gli ho collegato uno strumentino per vedere i codici, la macchina niente da dire che aveva carenza d'ossigeno, che aveva le serrande chiuse nell'aria, che il turbo compressore non era pressione giusta, mi le affrontasse e poi che cos'era? Era semplicemente la batteria, cioè troppa elettronica ormai le macchine e possono dare difetti, anche la mia ultima Audi mi ha lasciato a piedi perché c'era una caccola nell'aspirazione, una cosa piccolissima, una pallina microscopica, lei se ne è accorta, non ha trovato una cosa decente perché questa serranda non si chiudeva al 100% ma solo al 93%, così abbiamo visto i dati dal computer e perciò mi si aspetta in mezzo all'incrocio, ho dovuto chiamare il carrattrista, capito? Sì, così, poi non puoi spingere se la mettono in moto, un casino, la mia addirittura per mettere in moto, lo so la tua, ma devi premere la frizione, se no non mette in moto. Caso io premo la frizione, il freno e la chiave, e così metto in moto, se non premo frizione, il freno e chiave, non metto in moto. Casco, passa 45. Sì, posso.